24. La storia. Romanzo criminale, un libro, un film, una fortunata serie televisiva, ma soprattutto una storia vera. Qui a Radio 24 vi raccontiamo fatti e misfatti della Banda della Magliana, una delle organizzazioni criminali più potenti e ramificate degli anni Ottanta. Una vicenda che ha per protagonisti delinquenti dal grilletto facile, servizi segreti, politici, giudici corrotti e che si intreccia con alcune delle più inquietanti storie misteriose d'Italia. Una storia che ha inizio alla metà degli anni 70. Roma, 30 marzo 1976. L'arresto di Albert Bergamelli chiude un'epoca. Il mito dei marsigliesi vacilla. Al loro posto si fa strada la mafia dei colletti bianchi, che fa affari con palazzinari e finanzieri e che si dedica al riciclaggio e alla speculazione. Il suo stratega è Pippo Calò, il cassiere di Cosa Nostra, che si è trasferito nella capitale nel 1972. Alla mala romana, divisa e disorganizzata, restano gli affari di piccolo cabotaggio, bische, scommesse, furti e soprattutto rapine. A mettere a segno, racconta l'esperto cronista di Nera Massimo Lugli, erano dei gruppi detti batterie. Erano gruppi che si formavano per un colpo in genere. Facevano il colpo e si scioglievano. La malavita un po' cialtrona, un po' disorganizzata, pronta a tradirsi, a allearsi, a riaggregare, come adesso. Adesso è tornata a essere così. La batteria più agguerrita è quella della Magliana, figlia del degrado di un quartiere nato proprio dalla speculazione edilizia. La compongono una decina di elementi, tra cui spiccano Marcello Colafigli, Edoardo Toscano e Maurizio Abbatino, detto Crispino. Un leader naturale, lo definisce il prefetto Nicolò D'Angelo. Lui era il più freddo, non a caso diventa uno dei capi assoluti della Magliana. Dalle parti di Testaccio e Trastevere le figure di primo piano sono invece quelle di Danilo Abbruciati ed Enrico De Pedis, per tutti Renatini. Tra Ostia e Acilia poi a comandare un pupillo di Cutolo, Nicolino Selis, legato a quelli della Magliana dall'amicizia con Antonio Mancini, l'accattone. Sono tutti malavitosi, giovani e pieni di ambizioni, ma senza una strategia. Uno di loro però intuisce che messe insieme quelle batterie possono arrivare a prendersi tutta Roma. Si chiama Franco Giuseppucci, ma per tutti è il Negro. Il Negro, collo taurino, carnagione scura, è legato ai militanti dell'estrema destra ed è conosciuto in tutta Roma, compresi i quartieri alti. È lui che alla fine del 1977 pone le basi per fare i soldi veri e dare il via all'ascesa di quella che passerà alla storia come la Banda della Magliana. Sulle origini della banda ecco la testimonianza esclusiva di due esponenti di spicco, Maurizio Abbatino e Antonio Mancini. Franco si rivolge a me per una storia di armi e io che già lo conoscevo decidiamo di farne una batteria un po' più seria. E costituiamo appunto una banda. Noi ci chiamavamo fratelli, sembrava che ci eravamo scelti, trovati uno uguale all'altro. Eravamo già banditi, ma con qualcosa in più. Le attività che svolgevate continuavano a essere ancora soltanto... rapine, finché poi siamo arrivati a sequestro di persone. Cronaca, è stato rapito a Roma il duca Massimiliano Grazioli. Mentre rientrava a Roma dalla sua tenuta in auto, cinque individui armati e mascherati lo hanno bloccato in via della Marciliana, nei pressi della Salaria. È il 7 novembre 1977. I rapitori chiedono 10 miliardi. Seguono frenetiche trattative, condotte attraverso annunci cifrati sui giornali e telefonate anonime. Tre mesi più tardi, il 14 febbraio 1978, le parti si accordano. La sera del 4 marzo, il figlio dell'ostaggio lascia cadere da un cavalcavia sulla Roma Civitavecchia un borsone contenente 1,5 miliardi di lire in contanti. Ma per il duca, precisa Abbatino, è ormai troppo tardi. L'ostaggio è stato spostato più volte, che è stato portato giù nel Napoletano, dove ha visto una persona nel viso e si è deciso di eliminare la persona sequestrata. Il corpo di Grazioli non sarà mai ritrovato. La nuova banda di Abbatino e Giuseppucci, ad ogni modo, ha raggiunto il suo scopo. Ora, però, c'è un problema. Se venisse divisa tra i molti partecipanti al sequestro, la somma del riscatto, in sé considerevole, diverrebbe ben misera cosa. Io ho un'altra proposta. Ciao. Stecca parola per tutti. 50 milioni a testa. Quello che avanza lo mettiamo da parte. Invece da pesce poco, in tanti. C'èmo tanto, insieme. Questa è un'ottima base, eh. Ma che cazzo sta Dio con gli soldi? Voglio i soldi! Scrocchio! E si è educato. Ma che cazzo sta a dire? Sta a parlare con gentilezza, Libano. Ascolta quello che ti dice. E poi dopo dici. Insomma, Libano, sta base ci serve per far che? Per piacere quello che se vogliamo via a tutti. Che se vogliamo via a tutti? Roma. Prendersi Roma è il momento che cambia la storia della malavita romana negli anni 70. Momento immortalato nel film Romanzo criminale di Michele Placido. La stecca para, ovvero la divisione solo di una minima parte dei proventi del sequestro, infatti è un modo per la banda di accumulare capitale, un capitale da reinvestire nel traffico di stupefacenti. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia della banda della Magliana, raccontata attraverso le parole di uno dei boss della banda, Maurizio Abbatino. Abbiamo preso tutti gli spacciatori e li abbiamo riforniti, abbiamo riforniti della mercanzia nostra, parlando anche con i fornitori. E non era il caso che si mettessero tra noi. E se qualcuno non ci voleva stare? Avremmo preso dei provvedimenti più gravi. Il traffico di stupefacenti porta la nuova mala romana in contatto con le grandi organizzazioni criminali. Nella primavera del 78 i maglianesi, col tramite di Selis, incontrano Raffaele Cutolo e aprono il loro canale di rifornimento. I testaccini, invece, si servono dai siciliani. Ma la droga non è l'unica fonte di reddito. Rapine, scommesse, ricettazioni e bische continuano a gonfiare le tasche di questi giovani boss che si danno alla dolce vita e agli eccessi. Massimo Lugli ne conserva un ricordo vivido. I malavitosi romani portavano al collo una lametta d'oro, andavano in giro con le barrette di platino per sniffare. Avevano proprio la cosa, una specie di, non so come definirlo, di feticismo della cocaina. La banda dunque cresce. Non mancano certo tensioni e divisioni interne, ma quando si tratta di difendersi da un pericolo esterno o di presidiare il territorio, il gruppo è unito, deciso e spietato. Il salto, che si può chiamare salto comunque anche nell'ambiente, comincia quando con il primo omicidio, che è quello di Nicolini Franco, detto Franchino il criminale, che era una persona che aveva in mano un gioco delle corse a Tordivallo. 25 luglio 1978, mezzanotte circa, parcheggio dell'ippodromo di Tordivalle. Terminato il programma serale, Franco Nicolini, temutissimo boss delle scommesse clandestine, sale a bordo della sua Mercedes. C'era stato uno screzio, insomma, una persona che abbiamo dovuto eliminare. Nel panico che segue la sparatoria, i killer si allontanano indisturbati. Del comando fanno parte Toscano, con la figlia Selis e Abbatino. La banda della Magliana è ormai un marchio garantito, una holding criminale dai contorni incerti, un'organizzazione priva di riti e vincoli associativi, che tra i membri storici, complici e fiaccheggiatori arriverà a contare centinaia di aderenti. Anche se finiscono dentro, i boss della Magliana mantengono il controllo del territorio. Quando tornano a piede libero, poi, la loro ferocia è inaudita. Spesso, precisa un investigatore esperto come Nicolò D'Angelo, con l'aggravante dei futili motivi. La Magliana ha ucciso più volte, anche in maniera efferata, e ha ucciso anche soltanto per uno schiaffo. Roma, 15 aprile 1980. Sotto i colpi dei sicari della Magliana cade Amleto Fabiani, colpevole di aver schiaffeggiato pubblicamente Renatino De Peris. Lo stesso giorno, all'Alberone, viene giustiziato nella rivendita di tabacchi che gli fa da copertura il pregiudicato Teodoro Pugliese. L'ordine è venuto da Franco Giuseppucci, ma gli esecutori, a quanto dicono i pentiti della Magliana, sono militanti dell'estrema destra romana, i NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari. Nell'estate del 1978, Abbatino e Toscano incontrano nel Rietino una vera e propria eminenza grigia di quegli anni. Il criminologo Aldo Semerari, già ispiratore di aggregazioni neofasciste con il Movimento di Azione Rivoluzionaria e Ordine Nuovo, e iscritto alla P2 di Licio Gelli. A lui piaceva proprio avere contatti con questi gruppi criminali, forse non so, un po' di deformazione professionale, tanto è vero che faceva delle perizie anche per la Camorra. C'è stato un periodo che noi pensavamo di utilizzare loro come loro pensavano di utilizzare noi per altre cose. Ecco, voi per cosa li utilizzavate? Noi soltanto per a scopo, insomma, per perizie e per l'approvvigionamento, l'acquisto di armi, che in quel periodo per loro era più facile. E loro come pensavano di utilizzare voi? A Semerari pensava veramente proprio a un appoggio di tipo logistico, eventualmente un colpo di Stato. Infatti quello che loro facevano delle campagne di reti, si radunavano proprio simulando dei colpi di Stato. Semerari, lo abbiamo sentito, vuole usare i giovani della banda per le sue trame eversive. Quelli della Magliana invece vedono in lui uno strumento utile per ottenere perizie compiacenti e garantirsi l'impunità nei loro traffici criminali. Un legame ambiguo, quello con il criminologo, destinato a ritornare in questa storia. Ma all'inizio degli anni Ottanta un fatto nuovo, imprevedibile, irrompe nella vita di quei giovani malavitosi: l'omicidio del loro capo carismatico, Franco Giuseppucci, detto il Negro. Sabato 13 settembre 1980, piazza San Cosimato, Trastevere. Franco Giuseppucci esce da un bar e getta un'occhiata distratta ai suoi giustizieri. Il Negro è ferito. Tenta una fuga disperata e inutile. La polizia brancola nel buio, ma alla Magliana i nomi dei responsabili sono sulla bocca di tutti. A far fuori il Negro sono stati Pesciaroli, gli uomini del clan Proietti, venuti dai banchi del mercato rionale a Monteverde, gestori di bische e ben inseriti nel giro delle scommesse clandestine. Il movente dell'omicidio è da ricercare proprio nel racket delle scommesse, monopolizzato negli ultimi tempi da Giuseppucci. La risposta di Abbatino e compagni, però, non tarda ad arrivare. Ci siamo dedicati proprio principalmente a questa vendetta. Abbiamo deciso di eliminarli loro e chiunque aveva avuto contatti con loro. Nel conflitto a fuoco tra clan rivali è stato ucciso Maurizio Proietti, uno dei grossi nomi della mala romana, coinvolto in numerose vicende che riguardavano il controllo delle scommesse clandestine agli ippodromi, il giro del gioco d'azzardo, le bische ed anche affari di droga. Anche Nicolò D'Angelo, all'epoca nella squadra mobile della capitale, si precipita sul posto. La volante che intervenne si trovò di fronte ai due della Magliana, con i quali ingaggiavano chiaramente un conflitto a fuoco all'interno di un palazzo. E quando noi stavamo uscendo dal portone dopo che avevamo ammazzato uno dei Proietti, io mi sono sentito un colpo di pistola qui sulla spalla, vicino al cuore. Non sapevo da dove venisse, chi mi avesse sparato. A questo punto gli assassini hanno esploso alcuni colpi contro la macchina della polizia e gli agenti hanno immediatamente risposto al fuoco facendo ricorso alle armi automatiche. Addirittura uno dei due si fece scudo di un bambino per sfuggire alla cattura dei nostri uomini. Sono stati molto bravi all'epoca gli agenti, i quali, dopo aver visto il bambino, si fermarono e così evitarono una situazione ancora molto più tragica. I due killer, benché feriti, hanno a questo punto tentato una disperata fuga, ma sono stati catturati dall'equipaggio della volante all'interno di un appartamento dove si erano barricati. Dopo che è arrivata la polizia e ci hanno arrestato, mica si preoccupava dell'ergastolo che... No, lui diceva è morto. Cigno, siamo fermati, Cigno, non si preoccupi. L'avete raggiunta? Si conferma, Cigno, dei Rone 10, l'abbiamo raggiunta e bloccati. Il Far West di via Donna Olimpia lascia esterrefatti. Quella sera Roma fa la conoscenza dei suoi nuovi padroni. Maglianesi e Testaccini assumono il controllo del territorio ad est di Roma. Si fa strada l'idea che quei killer sanguinari siano qualcosa di più di una gang di quartiere. Ma proprio alla fine di quel 1981 gli inquirenti infliggono quasi casualmente un primo duro colpo alla banda. Un preciso collegamento tra la malavita comune e estremisti di destra risulterebbe dalle indagini sulla scoperta di un arsenale di armi ed esplosivo all'interno di uno stabile del Ministero della Sanità all'Eur di Roma. L'arsenale era custodito da Biagio Alesse, il portiere dello stabile, suoi complici due noti esponenti della malavita romana, Marcello Colafigli, di 28 anni, e Maurizio Abbatino, di 27 anni. A proposito di quel ritrovamento, il prefetto D'Angelo non ha dubbi. Esaminando attentamente tutto ciò che fu sequestrato e nel corso degli anni, si è dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che quello era un arsenale comune. Arsenale comune a Inar, arsenale comune alla Magliana, arsenale comune alla Camorra. Banda della Magliana, destra eversiva, Camorra. Le tre organizzazioni criminali hanno un arsenale in comune. La banda della Magliana gioca un ruolo ambiguo in uno dei momenti terribili della stagione di piombo, il sequestro Moro. Roma, 16 marzo 1978. Le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro. È l'inizio dei 54 giorni più drammatici nella storia della Repubblica. Mentre si susseguono comunicati veri e falsi, polemiche sulla linea della fermezza e appelli disperati, la ricerca della cosiddetta prigione del popolo è continua e spasmodica. È in questo frangente che, secondo Maurizio Abbatino, Franco Giuseppucci, il Negro, uno dei fondatori della banda, riesce a individuare il covo brigatista. Voi della banda della Magliana sapevate dove era la prigione di Moro, è vero? Tutto ci ha mandato un personaggio politico a parlare per vedere se sapevamo dove era il covo di Moro quel periodo. Abbiamo avuto un incontro con lui e cioè io non ero d'accordo a mettersi in mezzo in questa situazione, rispettavo qualsiasi forma di delinquenza, insomma, di criminalità, non vedo perché. Poi io credo che Franco abbia saputo dove era Moro e non so a chi abbia detto qua. Come l'ha saputo Franco dove era? Non era difficile, l'altra parte. Che poi dove era Moro c'era anche appartamento per gente pregiudicata che conoscevamo. Moro, effettivamente prigioniero in via Montalcini, a pochi isolati dalla Magliana. Una versione simile dei fatti, del resto, l'ha offerta lo stesso Cutolo ai microfoni di Mixer nel 1994. Qui è la Magliana e qui c'era via Montalcini. Non volendo aver saputo Moro dove stava, dice Raffaele, ti interessa salvare Moro? Ho detto, fammi domandare. Ho chiesto a un avvocato, ha domandato a Roma e non mi hanno voluto incontrare. Quindi potevo salvare Moro non volendo, comunque mia nonna dice fatevi i fatti vostri, proprio stavano preoccupati che io salvavo Moro. Abbatino e Cutolo insomma raccontano la stessa storia. Qualcuno nella banda della Magliana aveva saputo dove era tenuto prigioniero Aldo Moro e del resto proprio le trattative più o meno segrete per liberare Moro restano uno dei tanti misteri di quella tragedia. Ma torniamo alla storia della banda, siamo nei primi anni Ottanta. La banda è sempre più attiva e i legami con le altre grandi organizzazioni criminali si fanno sempre più stretti. Soprattutto il gruppo dei Testaccini è sempre più vicino a Pippo Calò e alla mafia siciliana. A dimostrarlo una volta di più è il coinvolgimento di uno dei boss del Testaccio, Danilo Abbruciati, in uno degli episodi più enigmatici di quegli anni, l'attentato a Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano, figura chiave nella crisi che sta vivendo in quei mesi l'istituto presieduto da Roberto Calvi. 27 aprile 1982, Milano, via Aldo Fredi. Il vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, esce come ogni mattina per recarsi al lavoro. Si dirige verso la macchina di servizio, dove lo attende il suo autista. Uno sconosciuto gli si fa incontro. All'improvviso estrae di tasca una pistola e apre il fuoco. Rosone viene colpito di striscio. Una guardia giurata che piantona l'agenzia del Banco Ambrosiano spara a sua volta sull'attentatore. Lo colpisce mentre cerca di saltare sulla moto guidata dal suo complice. Il killer ha ancora il tempo di sparare sul Rosone, ma colpisce il suo autista prima di essere raggiunto da due colpi mortali. L'attentato al vice di Roberto Calvi, il depistaggio della strage di Bologna, le ricerche della prigione di Aldo Moro. Qual è il filo rosso che lega tutte queste vicende alla banda della Magliana? In questo giro erano coinvolti anche, che a lei risulti, persone dei servizi segreti, di apparati deviati dello Stato? Chi di voi teneva questi contatti? Gruppo, al principio venivano quasi tutti da Franco, Giuseppe Pucci. Quando non c'è stato più lui sono passati a quelli di Sestaccio, da Renato e Danilo Bruciati. E voi che rapporti avevate con questa organizzazione? Ma non lo so, io penso che a un certo punto siamo stati un po' anche un po' strumentalizzati da queste persone. Ma allo stesso tempo eravamo noi anche che strumentalizzavamo, perché a noi ci interessava che i processi andassero a buon fine. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia della banda della Magliana, raccontata attraverso le parole di uno dei boss della banda, Maurizio Abbatino. Secondo Abbatino, lo avete sentito, i servizi segreti e la banda sono stati a lungo in contatto. Scambi di favore, reciproche convenienze hanno alimentato negli anni un rapporto ambiguo che ha finito per cambiare i connotati originari del gruppo. Alla metà degli anni Ottanta, insomma, quei giovani rapinatori che si erano messi in testa di prendersi Roma sono al centro di vicende ben più grandi e complesse di quanto avessero mai immaginato. Ma assieme agli affari e agli utili crescono anche le divisioni e i rischi. Ricercato da 15 anni, Pippo Calò, il numero uno della mafia di Corleone, ritenuto il grande cassiere dell'intera organizzazione, è stato arrestato stanotte a Roma dalla squadra mobile. L'arresto di Pippo Calò scatena un effetto domino che investe, attraverso indagini patrimoniali e finanziarie, anche i vertici della Magliana. Finiscono tutti dentro, ad eccezione di Abbruciati, Giuseppucci e Balducci, nel frattempo deceduti. Passano pochi mesi e i capi di imputazione si moltiplicano grazie alle ammissioni di un membro storico dell'organizzazione, Fulvio Lucioli. Ha inizio così una dura battaglia dentro e fuori le aule di giustizia. La banda della Magliana deve tamponare le falle aperte dai pentiti e spendere tutto il suo potere di intimidazione e corruzione. La Magliana aveva una grossa capacità di corruzione. Era penetrata nei gangli criminali. Roma, 8 febbraio 1986. La maggior parte degli imputati nell'inchiesta nata dalle dichiarazioni di Lucioli viene assolta. La Corte d'Assise prima e la Corte d'Appello un anno dopo riducono i capi d'accusa al solo traffico di stupefacenti. Avevamo delle introdurre sia nel tribunale, nella sanità, cambi di avvocati o personaggi, insomma, che quando succedeva qualcosa a qualcuno veniva attivato un meccanismo che poteva essere una perizia o magari un giudice corrotto. Alla fine dell'anno viene arrestato per spaccio un altro esponente di spicco della banda, Claudio Sicilia. Seppellito dai capi di imputazione, il vesuviano si decide a parlare. Sembra la svolta, quelle di Sicilia vengono definite dagli inquirenti delle fluviali chiamate di correità. Anche Mancini ammette che Sicilia era un personaggio chiave del sodalizio. Gestiva tutta la droga, aveva i contatti nei tribunali, era uno che aveva i contatti nel Napoletano, Casillo, Iacolari, tutti i personaggi di spicco della Camorra. E Sicilia aveva raccontato molte cose vere. 11 novembre 1986, deponendo di fronte al giudice, Sicilia smaschera anche Abbatino, da tempo ricoverato in una clinica grazie ad una falsa diagnosi. Al boss non resta che la fuga. Il personale era convinto che, perché avevo un tumore, ma ero anche paralizzato le gambe. Vivevo su una sedia a rotelle da 3 anni. Il personale, anche addetto alla custodia, era convinto che fossi infermo. forse hanno allentato un pochino la sorveglianza. E una notte sono riuscito a calarmi dalla finestra e là. È il 23 dicembre 1986. Abatino ha appena il tempo di far perdere le sue tracce. Meno di tre mesi più tardi, il 17 marzo 87, la squadra mobile di Roma arresta in un unico blitz 52 persone. Pochi giorni dopo, tuttavia, grazie ad una clamorosa decisione del tribunale, tutti gli imputati tornano a casa. Nicolò D'Angelo ricorda l'episodio con sconcerto. Il Tribunale di Libertà in tre giorni aveva esaminato 80 posizioni e tre giorni sicuramente erano molto pochi. Il 14 giugno 1988 la prima sezione penale della Corte di Cassazione annulla processo e condanne, demolendo l'impianto accusatorio e sconfessando i pentiti Lucioli e Sicilia. La ripetizione del processo poi sfiora il paradosso. Niente associazione a delinquere, tutti assolti. Per i giudici la banda della Magliana è solo un'invenzione. A spiegare, almeno in parte, il retroscena di questo pronunciamento è ancora Maurizio Abatino. C'erano molti giudici corrotti che voi pagavate? A sentire gli avvocati c'erano, se non erano proprio corrotti comunque erano compiacenti in quanto erano amici o frequentavano gli stessi circoli. Rapine, sequestri, omicidi, droga a fiumi, ma anche legami con la mafia, la camorra e i servizi segreti. All'inizio del 1989, grazie a una rete fittissima di complicità e corruzione, i boss della Magliana sono tutti a piede libero. Ma del sodalizio che ha consentito l'ascesa di quel gruppo di giovani gangster ormai resta poco. La posta in gioco è diventata troppo alta. Il regolamento di conti tra le due anime della banda, quella della Magliana e quella del Testaccio, non è più rinviabile. Ostia, 16 marzo 1989. Due sicari dei Testaccini uccidono Edoardo Toscano, uscito dal carcere da appena qualche settimana. 2 febbraio 1990, arriva la risposta dei maglianesi. Enrico De Pedis, considerato ormai il re della mala romana, cade vittima di un agguato nella centralissima via del Pellegrino. Poche settimane dopo, il 18 marzo, scompare Roberto Abatino, fratello del latitante Maurizio, fuggito all'estero. Prima di ucciderlo, i sequestratori lo seviziano a lungo. Il corpo sarà restituito dal Tevere una settimana dopo. È una spirale di odio e vendette senza fine. Finché il 19 novembre 1991 tocca a Claudio Sicilia, il pentito ritenuto non attendibile e ormai abbandonato al suo destino. La condanna a morte di Claudio Sicilia, l'ex esponente della banda della Magliana, che aveva collaborato con la giustizia romana per far luce su tanti misteri legati alla famigerata gang ucciso ieri sera, non ha una firma ben precisa. La morte del pentito Sicilia scatena polemiche e discussioni. La scia di sangue lasciata dalla faida interna alla banda non è più tollerabile. Magistratura e forze dell'ordine intensificano gli sforzi. L'obiettivo numero uno è sempre lui, Maurizio Abatino. Crispino sembra introvabile, ma poi, alla fine del 1991, dopo 6 anni di latitanza, anche lui commette un errore. Noi ogni anno, a Natale e Capodanno, eravamo lì ad ascoltare. Eravamo il Grande Fratello. Che ascoltavamo se arrivasse una telefonata di auguri alla famiglia, che per 6 anni non è mai arrivata. Ma il 6° anno è arrivata e questo ci ha consentito di arrestarlo. Abatino vive sotto falsa identità in Venezuela. Agli agenti che lo arrestano in un bar di Caracas non oppone resistenza. Non ha tollerato i flash dei fotografi e le telecamere. Dopo 6 anni di latitanza è sceso all'aeroporto di Fiumicino coprendosi il volto con il braccio. Maurizio Abatino, capo indiscusso negli anni 70 e 80 della banda della Magliana di Roma, pensava di essere ormai al sicuro nel rifugio dorato di Caracas. Come ha maturato la decisione di collaborare? Sono state varie fasi, soprattutto la lunga lontananza dai compagni, dai amici della banda. Sarei potuto evadere tranquillamente, non sono stato aiutato. la morte di mio fratello, che io penso che siano responsabili loro, se non materialmente, almeno moralmente, perché c'era proprio da parte della banda un sodalizio che andavano protette anche i familiari. Ma mai ero rimasto solo, non sapevo più cosa, da che parte stare, non sapevo più, non mi fidavo più di nessuno. È nata dalle rivelazioni di Maurizio Abbattino, l'ex componente della banda della Magliana, arrestato a Caracas nel gennaio 92. L'operazione di polizia che ha portato all'arresto di 56 persone, tutte legate alla banda della Magliana. Una ventina di omicidi, sequestri di persona, traffico di stupefacenti, riciclaggio, questi reati commessi, ma soprattutto pericolosi agganci con la destra eversiva, la P2, Cosa Nostra. Parla molto della banda della Magliana ancora oggi, quando all'epoca c'erano altre organizzazioni, appunto come Ordine Nuovo, la P2, che sembra che stanno nel dimenticatoio. Sembra che la Magliana sia diventata una discarica, che tutto quello che non si riesce o non si vuole, se riesce a venirne a capo, si incolpa la banda della Magliana. Mix 24, la storia. Giancarlo Del Cataldo, scrittore, magistrato, nel 2002 ha scritto Romanzo criminale, da cui Michele Placido ha tratto il film di successo, un grande successo. Ecco, com'è nata l'idea di questo libro? È nata incontrando in carcere uno dei veri esponenti della banda della Magliana, ma anni prima di scrivere Romanzo criminale. E lui mi disse: le potrei raccontare delle storie che lei non crederebbe, infatti tanti suoi colleghi non mi hanno creduto quando le ho raccontate, e io gli dissi: prova a raccontarmele. Lui cominciò a raccontarle e io cominciai a studiare su questo racconto. E lui chi era? Lui era Claudio Sicilia, poi assassinato dopo essere stato scarcerato, aver scontato la pena. Purtroppo non fu creduto, ma aveva detto molte verità. Capita a molti, ecco. Alla storia della banda della Magliana comunque sono legati tantissimi misteri italiani, qualcuno veramente, altri presunti, perché poi si costruiscono anche i miti qualche volta. Ecco, certo. Dal sequestro Moro, la sparizione della Orlandi alla strage di Bologna. Lei è arrivato un po' a darsi qualche risposta vera su quanto c'è di vero in questi collegamenti? Ma i collegamenti sicuramente c'erano con il sequestro di Moro, perché fu attivata una rete malavitosa, fu attivata nell'intento, io direi, comprensibile, adesso non potrei dire lodevole, ma insomma di liberare Moro. Certo. Ma anche lodevole possiamo dirlo. Ma sì, insomma, adesso in quegli anni eravamo tutti divisi, sì, tra il partito della trattativa, il partito dell'inflessibilità, sì, ma insomma lo Stato italiano ne ha fatte anche di peggio. Assolutamente, e molti di quelli che erano per l'inflessibilità hanno cambiato idea. Devo dire sì. Sono meno provati i collegamenti con la strage di Bologna, perché in realtà non c'è un collegamento diretto, certo, c'è una contiguità della banda della Magliana con elementi neofascisti, ma un collegamento non diretto è sufficiente. No. Certo. Ma consideri che banda della Magliana è diventato un brand a Roma. Sì, assolutamente, è vero. Molti hanno addirittura, diciamo, rivendicato una sorta di appartenenza, ma non ci avevano mai messo neanche un piede. Sì, sì. E ad altri è stata affibbiata questa patente, ma in modo ingiustificato. Per nobilitarli sul piano criminale. Esatto. Ecco, esatto. Ma senta, lei col suo romanzo ha descritto una Roma appunto criminale degli anni 70. Ma oggi, per quello che ne sa lei, qual è lo stato della criminalità organizzata a Roma? Ma c'è una grandissima differenza, ed è quella della caduta di un progetto complessivo. Quel progetto, la banda della Magliana, si inseriva in un contesto di guerra fredda. Potevano essere utili, perché comunque potevano anche fare qualche lavoro sporco. Certo, uomini di mano, pronti a tutto. Esatto, come bravi rinascimentali. Sì, esatto. Oggi la situazione da un lato è molto più netta, ci siamo noi e ci sono loro, dall'altro lato è molto più confusa, nel senso che loro, come noi, sono in una fase di assoluta liquidità. È difficile identificare una mafia romana oggi come la banda della però Magliana. Diciamo che è una criminalità che non ha più confini, perché assassini in ogni parte della città, cioè sembra che confini non ci siano più. Questa liquidità appunto è davvero qualcosa di nuovo. Ma io, se dovessi sintetizzare, direi che negli anni 70-80 l'ambizione del bandito era quella di diventare un rispettabile uomo d'affari del centro. Sì. Oggi purtroppo direi che al centro si guarda con una certa benevolenza al bandito, si assumono anche i suoi comportamenti, la sua arroganza di fondo, e quindi sì, è vero, i confini sono caduti, ma in tutti e due i sensi, non solo loro che sono arrivati nelle nostre strade, siamo noi che ci siamo sciolti come loro. Mm. Ecco, comunque a Milano, per esempio, l'Ndrangheta arriva a colpire omicidi sempre più frequenti, quindi è un po' la prova di quello che sta dicendo lei, confini superati. Io ricordo quest'estate per caso mi sono imbattuto in un vecchio numero di Linus, ricorda quella sì, rivista? Sì, certo, bellissimo. È un numero del 1990 e c'era un articolo di Corrado Stagliano. Sì. Che ironizzava sulla malavita a Milano, nel senso che lui diceva: io ho scritto che c'è la mafia a Milano e non ci crede nessuno. Invece era vero. Ecco, ancora una domanda, dottor De Cataldo. La proposta di modelli negativi, quelle dei personaggi della banda della Magliana, fatta con attori di grande richiamo popolare come Kim Rossu Stewart, Riccardo Scamarcio, secondo lei è una scelta giusta, a parte il successo ovvio del film? Ma io penso che quello che influenza in senso negativo le giovani generazioni sia il cattivo esempio che gli diamo noi, non certo il racconto. Che ne facciamo. Ecco, un'ultimissima cosa, lei è uno dei componenti della giuria del primo talent per aspiranti scrittori prodotto dalla RAI, è un modo nuovo per avvicinare i giovani ai libri secondo lei? Abbiamo tutti quanti subito un'intervista da un giornalista inglese che scriveva per il New York Times, che era estremamente scettico su questo. Io gli ho spiegato, sì certo, magari non è l'unica strada possibile. Ma è una! Però guardi, il libro sta così mal ridotto che tutto ciò che è meglio tentarle tutte, insomma. Sì. Bene. Grazie. Atto di militanza. Un atto di militanza, mi sembra molto bello per concludere questa intervista. Grazie mille, auguri per la militanza. Grazie. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini.